Di solito faccio una breve introduzione in attesa di iniziare, ma ci teniamo molto perché in questi momenti raccontiamo la storia di questa biblioteca e soprattutto perché fa queste cose, una biblioteca provinciale. Da anni ci occupiamo di tanti aspetti, anche della storia locale, ma anche della storia moderna e contemporanea, così come della narrativa e di alcuni temi che ci sono particolarmente vicini per la missione di questo tipo di biblioteca, che è una biblioteca provinciale, quindi ha un bacino d'utenza molto ampio e anche un grande scambio di documentazione con il resto d'Italia e anche a livello internazionale. Cosa facciamo? Quando noi organizziamo questi incontri, ci teniamo molto non solo a promuovere il libro che viene presentato quella sera o approfondire il tema che ci viene così rappresentato, ma anche dei suggerimenti nostri di lettura e soprattutto l'invito comunque a leggere e a frequentare una biblioteca, qualunque essa sia, insomma, perché è un modo per entrare in relazione con altre persone, per approfondire alcuni temi, per coltivare la propria libertà di opinione e quindi, insomma, come pure anche dal punto di vista professionale riuscire sempre ad avere dei nuovi stimoli e delle nuove competenze. Questa sera abbiamo questa particolare importante occasione di conoscere un aspetto sempre legato alla Seconda Guerra Mondiale, forse un aspetto meno conosciuto, ma comunque che ha coinvolto tante famiglie e quindi anche del nostro territorio, ed è l'occupazione italiana in URSS, la presenza fascista tra Russia e Ucraina nel 1941-1943. L'autore qui presente, lo saluto qui con noi, Raffaello Pannacci dell'Università degli Studi di Perugia, e sarà con noi questa sera, ci accompagna in questa conoscenza dell'autore e del libro la giornalista Floriana Gavazzi, volto noto della nostra sede RAI di Bolzano. Ringrazio e saluto entrambi, vi ringrazio della vostra partecipazione e vi ricordo che abbiamo tante iniziative domani e dopodomani e la prossima settimana fino alla metà di giugno. Domani sarà la volta della presentazione di un libro, L'ombra del silenzio, di Lucia Pesarin. Maria Pia Zanetti leggerà, Mercedes Bardi e Marina Mercati accompagneranno musicalmente e come moderazione. Giovedì abbiamo Freddy Longo, medico di Merano, che ha viaggiato tutto in giro per il mondo, Binari interrotti e il suo libro fotografico. Con però un breve docufilm di presentazione saranno con noi Marco Bernardi e Alessandra Limetti, oltre che l'autore. E via dicendo, insomma, la prossima settimana avremo anche la ripresa del nostro gruppo di lettura, quindi ci sono tante tante occasioni per tornare in biblioteca e per stare insieme anche e leggere, commentare, conoscere dei nuovi argomenti. Ringrazio quindi di nuovo i nostri ospiti, cedo la parola e ricordo che le nostre serate, le nostre iniziative vengono registrate, quindi poi sono ascoltabili anche attraverso il podcast che trovate sul nostro sito, la sezione podcast. Grazie, grazie a voi. Grazie Valeria e grazie a Raffaello Pannacci che è arrivato da Perugia e che per la prima volta ha visitato Bolzano, città molto diversa da quelle del centro Italia, così ricche di storia, di cultura. Allora, Raffaello Pannacci è dottore di ricerca, è stato assegnista di ricerca presso l'Università di Perugia e è autore di questa monografia molto imponente e importante. Ci ha messo quasi 10 anni a scriverla. Mi raccontava prima che l'ha scritta durante il Covid, ma il lavoro di ricerca delle fonti, per niente semplice, è durato quasi 10 anni. E quindi gli chiedo subito perché questo libro, visto che sulla campagna di Russia tanti libri sono stati scritti, in parte li vediamo anche qui, ma questo ha un taglio particolare e sicuramente porta uno sguardo nuovo dal punto di vista della ricerca storica. Sì, buonasera a tutti. Ringrazio ovviamente per la presentazione e per questo evento che mi ha dato appunto l'opportunità anche di fare, fra virgolette, il turista qui a Bolzano per la prima volta. Come mai fare un altro libro sulla campagna di Russia. C'è qui un banchetto effettivamente in cui abbiamo una molteplicità di testi di varia natura, con autori che fanno lavori diversi, chiaramente, o hanno fatto lavori diversi, pubblicati in date diverse, con un taglio diverso, e che hanno un focus, ciascuno un focus proprio, un tema a parte. Perché fare un altro libro su questo? Ma perché questo è un tema molto molto interessante, ma nessuno che abbia la storia per mestiere, non mi stanco mai di dire che la storia è un mestiere, effettivamente non è una passione, non è un hobby, nessuno che abbia fatto ricerca con le armi del mestiere se ne è fino ad oggi occupato per bene, compiutamente, o almeno non come lo intendo io. Sì, ci sono persone che mi hanno preceduto che hanno affrontato questo tema in maniera più o meno compiuta, ma io pensavo che bisognasse dire anche dell'altro. Noi conosciamo la cosiddetta campagna di Russia un po' per sommi capi, conosciamo fondamentalmente quelle che sono le operazioni militari e in particolare conosciamo poi quella che è la rotta, la sconfitta sul Don, quindi, e la conseguente ritirata a piedi in pieno inverno russo, quindi all'incirca di un evento durato quasi un paio d'anni, per qualcuno anche qualcosina di più. Noi conosciamo in sostanza un paio di mesi sì e no, e li conosciamo attraverso le parole di chi quell'esperienza l'ha fatta in prima persona e poi ce ne ha parlato chi 5 anni dopo, chi 10, chi 20, chi 30, a seconda del singolo caso. Quindi le conosciamo attraverso parole di reduci di guerra che, ritenendo di avere qualche cosa di importante da dire, ce lo hanno raccontato nei propri ricordi. E chiaramente la memoria personale, per quanto possa essere utile, per quanto possa dialogare con una ricerca storica, ha pur sempre dei limiti e non coincide sicuramente con quella che è la storia con la S maiuscola, che è chiaramente più fredda, un po' più distaccata, ma deve tenere conto di tante altre cose, di tante altre variabili, di tanti altri elementi, e si deve combinare con una ricerca d'archivio, chiaramente, che va fatta in maniera compiuta e senza necessariamente tenere conto di quello che raccontano le persone che hanno vissuto, che hanno fatto questa esperienza direttamente sul campo, anche perché le esperienze poi che hanno fatto questi, diciamo, ex reduci che poi si sono trasformati in scrittori sono molto diverse, a volte non necessariamente genuine al 100%. Insomma, alcuni hanno avuto sì delle esperienze, ma coloro che hanno fatto la guerra in prima linea e che hanno vissuto in prima persona la ritirata poi sono una percentuale più bassa, una percentuale relativamente più bassa. E quindi mi sono inventato questa ricerca che ha degli aspetti anche masochistici, perché per portarla avanti ci è voluto un tempo infinito. Le fonti militari, che sono praticamente il pane di chi deve affrontare uno studio del genere, sono molto difficili da raggiungere qui in Italia, ci vuole molto tempo. Sono gestite dai militari stessi, quindi diciamo dai figli e dai nipoti di coloro che la guerra l'hanno fatta e l'hanno organizzata 80 anni fa, e quindi, come dire, bisogna andarci un po' cauti, ti fanno vedere poche cose, quello che vogliono loro, e con delle difficoltà di accesso che inevitabilmente non solo scoraggiano parecchie persone, ma rendono i tempi molto lunghi. Infatti io ho scritto nell'introduzione a questo libro di averci messo 10 anni, ma non era certo un vanto, era più che altro una lamentela nei confronti di un sistema, ecco, mettiamolo in questo modo. Sì, perché c'è un ufficio studi dell'esercito che però appunto non facilita il ricercatore, soprattutto quando percepisce che è un ricercatore autonomo, non allineato. Sì, c'è un ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito che è che custodisce la memoria storica dell'esercito di terra, di quello che è oggi l'EI, l'esercito italiano, che dispone di un'infinità di materiali interessantissimi, dall'unità d'Italia d'oggi e anche prima, però più si va ad incidere nel vivo, più si va a fare ricerca su cose recenti, specialmente sulla Seconda Guerra Mondiale, che è un argomento molto sensibile, molto vicino, per quanto siano passati 80 anni, e lì c'è un po' di rigidimento. In realtà si tratta di un pubblico archivio, come potrebbe essere per esempio l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, che custodisce la documentazione dei nostri ministeri, quindi dell'amministrazione dello Stato, e che è liberamente accessibile, almeno fino ad una certa data, perché poi diventa troppo recente. In realtà anche questo è un pubblico archivio, ma viene gestito come fosse un po' un archivio di famiglia, della serie: vorrei fare ricerca su tuo nonno, che magari è stato un industriale, per esempio, ha aperto un'attività, insomma, o comunque ha svolto qualche funzione pubblica, e io ti dico sì, vieni a casa mia, vedi tutto quello che vuoi, in libertà, però poi io comunque sto parlando di un mio parente stretto, per cui vorrò sempre sapere esattamente quello che fai e dove andrai a parare, e non è detto che io ti dia il consenso per dire tutto quanto, insomma, ecco, queste più o meno sono le dinamiche, per quanto possa sembrare incredibile oggi nel 2025. Ecco, io come tutti ho un mio ricordo personale, un mio, diciamo, vissuto sulla ritirata di Russia, che è il mio papà che leggeva 100.000 gavette di ghiaccio. Ne avrete sentito parlare anche voi, avrete anche voi forse letto il libro. Ho scoperto che tra l'altro fu scritto molti anni dopo rispetto alla ritirata vera e propria, e uscì credo nel 1960, una cosa del genere. Diciamo che fu pubblicato molto molto tempo dopo la prima proposta di un editore. È pubblicato nel 63, in realtà nel 46-47 era già pronto, ma non erano maturi i tempi per quella pubblicazione. E quindi nel mio immaginario la ritirata di Russia era stata un'enorme sventura dell'esercito italiano, che con gli scarponi di cartone, questa era un po' la narrativa, doveva affrontare il rigidissimo inverno russo, e quindi avevo sempre visto questi soldati come vittime di una sconfitta clamorosa e di una ritirata dolorosissima, con tanti morti, con tante persone congelate agli arti, eccetera. Questo libro mi ha fatto vedere l'altra faccia, e cioè il fatto che gli italiani erano invasori. Il primo a metterlo nero su bianco in modo chiaro è stato uno studioso, uno storico tedesco, Thomas Schlemmer, che nel 2009 scrive «Invasori, non vittime», questo è proprio il titolo del libro, «La campagna italiana di Russia 1941-1943». Quindi cerchiamo un po' di capire, prima di tutto, perché gli italiani decidono di invadere la Russia. Nel 1939 c'era stato il famoso patto Molotov-Ribbentrop, e cioè un patto di non belligeranza tra la Germania e la Russia, poco prima che la Germania invadesse la Polonia, pochi mesi prima. Poi però i tedeschi si rimangiano questo patto, e il 22 giugno del 1941 Hitler lancia l'operazione Barbarossa, cioè l'invasione della Russia, convinto che avrebbe in poco tempo, sarebbe arrivato fino a Mosca, e facilmente, visto che tra l'altro era estate e non c'era ancora attivo il generale inverno russo famoso, a cui anche Napoleone aveva dovuto sottostare, lui era convinto che avrebbe in poco tempo piegato l'esercito bolscevico. Che fa a questo punto Mussolini? Nessuno gli aveva chiesto di andare in Russia, però... Ma allora, la guerra italiana funziona in questo modo. Innanzitutto i tedeschi fanno fondamentalmente quello che vogliono e perseguono dei propri fini, perché hanno la potenza militare e politica per fare questo. Gli italiani vanno in sostanza a rimorchio, e il problema è che non hanno chiaramente la stessa potenza politica politica, militare ed economica, e non hanno neanche le idee molto chiare, per cui ad un certo punto, con la sconfitta in Grecia, con la sconfitta in Africa settentrionale, quindi le prime battute della guerra italiana, la guerra è chiaramente fallimentare, serve l'aiuto dei tedeschi, infatti sono i tedeschi che salvano la situazione in Nord Africa, sono i tedeschi che gestiscono la guerra in Grecia e che piegano definitivamente l'esercito greco, sono i tedeschi che fanno la parte principale nell'invasione della Jugoslavia, e in pratica gli italiani non possono più permettersi di fare quella che gli storici hanno chiamato una guerra parallela, cioè su un binario parallelo rispetto ai tedeschi, e sono costretti a fare quella sempre che gli storici hanno definito la guerra subalterna, cioè essere presenti con un certo tot di uomini e di mezzi al fianco dei tedeschi su qualsiasi fronte si aprisse o fosse già aperto. E che cosa succede appunto? Che arrivati alla fine del 1940 i tedeschi cominciano a pensare seriamente e pianificano appunto un'invasione dell'Unione Sovietica, con cui c'è appunto un patto di non belligeranza, però loro ad un certo punto giustamente se ne fregano, anche perché la guerra non è finita affatto, loro prevedevano di farne una molto più breve e in realtà cominciano a scarseggiare i viveri, cominciano a scarseggiare i carburanti, e c'è uno Stato che ha delle risorse fondamentalmente infinite come l'Unione Sovietica, che è a portata di mano, e cominciano a pianificare di invaderlo e di andare a prendersi tutto quanto con la forza. Questa è l'idea di fondo. E fra l'altro iniziano questa impresa così immensa anche contando sul fatto che l'Unione Sovietica è una dittatura, chiaramente, e secondo loro, portandola in guerra, quindi invadendola e costringendola ad entrare in guerra, ci saranno delle rivolte, quantomeno nelle periferie dell'impero sovietico, quantomeno in Ucraina, quantomeno negli stati baltici, ci saranno delle rivolte al potere centrale di Mosca, e quindi quello stato crollerà. Lo si ritiene, come è stato giustamente detto, un colosso dai piedi d'argilla. In realtà la guerra che i tedeschi fanno in quel teatro è difficilissima. Il crollo interno non c'è e non ci sarà mai, anzi, dimostra anche una coesione inaspettata, insomma, il sistema sovietico. Però questo lo vedremo più avanti. Nell'estate del 41 l'Italia si trova a dover fare i conti appunto con un nuovo fronte di guerra che si è aperto, e il governo italiano si affretta a dichiarare guerra a sua volta all'Unione Sovietica. Nessuno gliel'ha chiesto, giustamente, però ormai l'unica cosa che possono fare è appunto mandare un certo tot di uomini e di mezzi a fianco delle truppe tedesche che invadono l'URSS, che sono 3 milioni, sia chiaro, sono un po' più di 3 milioni, più i vari alleati ungheresi, rumeni, finlandesi, c'è mezza Europa ad invadere l'URSS, c'è anche un contingente spagnolo, c'è un contingente slovacco, ci sono truppe volontarie che vengono dal Belgio, dall'Olanda, insomma, ecco, è veramente uno schieramento imponente di 3 milioni e mezzo di uomini. E Mussolini appunto dice a Hitler di voler mandare assolutamente un corpo di spedizione in Russia, appunto il corpo di spedizione in Russia, XIR, quella sarà la sigla. Sono circa 60.000 uomini, un pochino di più, sono quindi una goccia in mezzo al mare, diciamo, però chiaramente danno una forza contrattuale poi quando la guerra sarà vinta, perché questo si ritiene, che la guerra verrà vinta, e infatti le primissime battute di quella guerra lì vanno molto bene per l'asse. La Germania gestisce quella guerra molto bene, fa delle profondissime avanzate, e sembra che tutto dovrà risolversi nel corso di poco tempo, e la guerra va avanti comunque almeno anche fino a ottobre, va tutto bene, le avanzate sono profondissime, finché non si arriva ai primi abbassamenti di temperature e ad un blocco delle operazioni di fronte Mosca, perché Mosca è molto ben difesa, e perché questa guerra, per quanto stia andando bene, sta costando molto di più del previsto, sia in termini di mezzi, sia in termini di uomini, sia in termini di carburante anche, e l'abbassamento delle temperature non favorisce queste operazioni. Poi c'è un'altra cosa da dire, se non ci fosse stato il cosiddetto generale inverno, ci avrebbe pensato il sistema viario sovietico a rendere il tutto molto più difficile. Indipendentemente dalla stagione, infatti, le distanze da coprire sono praticamente infinite. Il sistema viario, per tutta una serie di motivi, fra cui il fatto che in Ucraina, in Bielorussia, in Russia, nella Russia occidentale non ci sono praticamente pietre, e quindi costruire strade è parecchio difficile, i mezzi comunque avrebbero impiegato moltissimo tempo a raggiungere gli obiettivi, si sarebbero fermati, si sarebbero impantanati con le piogge, e quindi quella guerra sarebbe stata difficilissima. Sì, sarebbe stata comunque difficilissima e non si sarebbe chiusa così facilmente come si pensava. Però a quel punto anche l'Italia era in ballo. Già. Arriveremo poi alle similitudini con l'attualità e cercheremo anche di riflettere su come l'attuale conflitto tra Russia e Ucraina in qualche modo risenta anche di quella stagione lo studio di Raffaello Pannacci possa spiegare anche appunto il conflitto interno alle varie regioni dell'ex URSS. Ma intanto mi interessa capire come gli italiani, l'italiano medio, diciamo accettò e in qualche modo visse questa dichiarazione di guerra, cioè che tipo di atmosfera, che tipo di sentimenti, che tipo di reazioni ci furono in Italia rispetto alla notizia che dopo la Francia, dopo la Grecia, dopo l'Albania, dopo l'Africa si andava in Russia. Allora, la situazione nell'estate del 41, cioè quando comincia questa guerra, più o meno si può riassumere in questo modo. Gli italiani sono già stufi della guerra, in sostanza, perché le vittorie non ci sono e perché ancora prima di entrare in guerra il governo ha dovuto iniziare i razionamenti alimentari. Già dalla primavera del 40, cioè prima della dichiarazione ufficiale di guerra, visto che la seconda guerra mondiale è già in corso da tempo, ci sono quindi già i primi problemi, si è dovuto fare ricorso ai razionamenti alimentari, quindi la guerra è iniziata. Le famose tessere annonarie che davano diritto ad un tot di questo, un tot di quest'altro, e abbiamo in pratica questa situazione che non è certo allegra. Che cosa succede appunto? Che viene dichiarata guerra, che la Germania dichiara guerra e invade l'URSS, il governo italiano si affianca. È passato un anno dal 10 giugno del 1940 dalla dichiarazione di guerra da parte dell'Italia, quindi la guerra non solo non sta finendo, ma si sta, come dire, lo scenario geopolitico sta cambiando, si sta aprendo un nuovo importantissimo fronte di guerra, per cui per certi versi non c'è da stare allegri affatto. Però dopo un anno di guerra, quando si invade l'URSS, per la prima volta gli italiani hanno chiaro che c'è uno scopo che non è quello di ideologico, di battere la perfida Albione, per esempio, come si diceva, di fare una guerra astratta per motivi, le decadenti plutocrazie. Ci sono dei motivi molto più concreti. Si va in URSS perché lì c'è il grano, perché lì c'è il petrolio, perché lì c'è il ferro, c'è il rame, insomma, ci sono delle risorse infinite. Si sa benissimo che l'URSS ha fatto i piani quinquennali, gli stabilimenti industriali sono mostruosi rispetto a quelli italiani, e si va lì con la forza a prendere tutto questo. E gli italiani, l'italiano medio, diciamo, non parliamo certo delle alte sfere politico-militari, l'italiano medio lo sa bene e lo scrive anche. Noi abbiamo una serie di migliaia di rapporti, per esempio, di quella che era la polizia politica di allora, che sondava quella che noi chiamiamo oggi pubblica opinione, che in dittatura chiaramente è sommersa, ma emergeva tramite i vari rapporti delle spie che si trovavano sul territorio. E gli italiani avevano ben chiaro che quella guerra aveva uno scopo diverso. Poi, per carità, la guerra contro l'URSS ha tutto un suo aspetto ideologico e importantissimo. Questo nessuno lo toglie, e c'erano delle persone che erano convintissime che il comunismo fosse il nemico da battere. Questo sicuramente indipendentemente dal fatto che fossero fascisti o meno, ecco, per qualcuno la Russia era la traditrice della prima guerra mondiale, che aveva fatto la pace separata, per cui aveva permesso ai russi di spostare, aveva permesso ai tedeschi di spostare tutte le divisioni verso il cuore dell'Europa, e quindi da lì era derivata Caporetto, per esempio. C'era questa idea, insomma, per altri la Russia era il mondo del caos, il mondo del bolscevismo, dell'ateismo, anche, dell'ateismo, no? Anche giustamente, dell'ateismo anche da battere. Il Vaticano non vide male questa, insomma, in qualche modo era una rivincita della fede nei confronti di un regime che aveva scristianizzato le popolazioni, o almeno questo si asseriva. Effettivamente sì, negli anni 30 in Ursa c'era stata un'opera di scristianizzazione, come si direbbe, e uno dei paletti ideologici, appunto, uno dei puntelli ideologici della campagna è riportare Cristo, riportare la religione alle popolazioni a cui i bolscevichi l'hanno tolta. Questo era questo. Quindi abbiamo un aspetto ideologico importante, ma c'è un aspetto concreto, economico, che fa gola alle persone, anche all'italiano comune, insomma, non solo a chi ha una responsabilità di comando. Certo. Quando i soldati arrivano, soldati che spesso arrivavano dalle campagne, anche se poi tra gli ufficiali c'erano anche uomini colti e raffinati, che impatto ha l'arrivo in Russia? Come vedono la popolazione civile? I soldati fanno le esperienze più diverse, indipendentemente dal fatto poi che ci fossero, come dire, degli uomini più colti, la massa dei soldati, quali possono essere stati anche i miei parenti nella seconda guerra mondiale, per esempio, aveva un grado di istruzione elementare, a volte non ce l'aveva affatto, ecco. Provenivano però da situazioni diverse, per cui coloro che per esempio provenivano da realtà agricole, come da me, io vengo dall'Umbria, chiaramente una regione agricola per eccellenza, c'erano molti soldati che per esempio finiti a fare la guerra, a presidiare la linea del fronte sul fiume Don, quindi nella Russia propriamente detta, si ritrovavano in una situazione che per certi versi non era tanto diversa. C'erano i contadini, c'era la miseria, anche perché c'era la guerra in corso, e a volte questi uomini ritrovavano nelle persone che si trovavano lì nelle isbe, nelle tipiche abitazioni russe, un proprio omologo sociale, delle persone che avevano delle esperienze di vita quotidiana analoghe, insomma, il campo, gli animali, la miseria, appunto, gli inverni difficili, per esempio, da attraversare, insomma, e poi la vita che rinasce in primavera, in estate, insomma, ecco, questo tipo di esperienza. Poi c'erano soldati che chiaramente provenivano da realtà, i soldati italiani che andavano lì provenendo da realtà cittadine, magari urbane, da contesti industrializzati, chiaramente queste persone vedevano solo il fango, le capanne costruite, insomma, come in Abissinia, si diceva, perché l'esperienza chiaramente che stava alle spalle degli italiani era quella della guerra coloniale, per cui si facevano paragoni del genere. Oppure abbiamo avuto soldati italiani che sono finiti, hanno attraversato le zone, per esempio, per andare al fronte dell'Ucraina orientale, quindi una zona profondissimamente industrializzata, che hanno chiaramente visto un grado di sviluppo tecnologico e industriale molto diverso da quello che c'era da noi in Italia. Insomma, lì c'erano stati piani quinquennali sovietici, c'era stato uno sviluppo impetuoso, per esempio, quindi esperienze anche molto estranianti per alcuni, e lì c'era anche un ambiente, diversamente dalle campagne, che era molto più permeato da un punto di vista ideologico. C'erano delle popolazioni che sicuramente non potevano aderire chiaramente al comunismo, ma comunque sia il comunismo dalle loro parti aveva effettivamente inciso sul territorio, aveva innalzato il loro livello di vita rispetto a qualche decennio prima, quindi erano sicuramente molto meno propense a, come dire, dare confidenza, a stringere amicizia all'invasore, diciamo così, piuttosto che nelle campagne che erano spopolate, c'erano persone molto meno sensibili a questioni ideologiche e alla guerra in corso. Il libro è punteggiato da citazioni molto forti e per me anche in parte impressionanti su quella che è veramente la crudeltà e l'orrore che ogni guerra porta con sé. pagine molto forti sono dedicate ai prigionieri di guerra. E devo dire, io vedendo in questi giorni le immagini dello scambio di prigionieri, noi abbiamo visto soprattutto i prigionieri ucraini liberati, non ci hanno fatto vedere quelli russi, anche perché ci sono ormai poche televisioni e pochi giornalisti occidentali in Russia, però ecco, mi hanno fatto molto impressione quelle immagini di questi volti smagriti, di queste persone comunque orgogliose che subito indossavano la loro bandiera. E mi diceva prima Pannacci che purtroppo scambi di prigionieri in quella guerra non ce ne furono, ma i prigionieri furono tantissimi, in gran parte morirono perché le condizioni di prigionia erano proibitive, c'era pochissimo cibo, c'era poco cibo per i nostri soldati, immaginatevi per i prigionieri che i nostri soldati con fatica dovevano in qualche modo mantenere, no? E spesso anche trascinare di qua e di là a seconda dell'avanzata o della ritirata. Ecco, questo quadro dei prigionieri mi ha colpito tanto. Sì, noi per ovvi motivi, quando pensiamo ai prigionieri in relazione a questo teatro di guerra, pensiamo ai prigionieri italiani, chiaramente, che hanno fatto l'esperienza della prigionia in mano sovietica, ma chiaramente anche loro hanno avuto una prigionia in mano alle potenze cosiddette dell'asse, e nel primo anno di guerra, qualcosa di meno, sono morti più di 2,5 milioni di soldati sovietici che erano in mano tedesca, e erano chiaramente, c'erano prigionieri in mano anche italiana, in mano ai rumeni, in mano agli ungheresi, in mano ai finlandesi, ne sono morti a bizzeffe, e il primo anno di guerra è stato disastroso, anche perché si pensava di vincere la guerra e quindi i prigionieri erano qualche cosa di inutile. Poi, quando la guerra si prolunga, queste nazioni, Italia inclusa, sono costrette a trattare meglio i prigionieri di guerra perché sono forza lavoro gratuita da sfruttare, non per motivi umanitari. Ecco, questo è il quadro che noi abbiamo, e quindi avendo avuto dei prigionieri italiani in Russia che hanno sofferto, che spesso non sono tornati perché i primi mesi sono stati fatali per molti, non ci siamo posti il problema, ma abbiamo avuto anche noi dei prigionieri su quel fronte e se la sono passata molto male, come tante volte, tantissime volte, la maggior parte delle volte succede, hanno sofferto la fame, hanno sofferto il freddo, anche perché lì fa un freddo un po' diverso che da noi, e se non li si protegge, purtroppo il fame, la combinazione di fame e freddo produce patologie che è difficile molto curare. Quindi il libro ha anche un po' lo scopo di smontare il mito degli italiani brava gente, perché dopo la guerra la narrazione che molti tentarono era quella di dire: ma in fondo noi abbiamo fraternizzato con i russi, ma in fondo noi eravamo molto più buoni dei tedeschi, i prigionieri preferivano stare con noi che non con i tedeschi. Ma di tutto questo poco è documentato nel suo libro, no? E tra l'altro devo dire che i prigionieri sono stati scelti anche per la foto di copertina del libro. Ecco, la descriviamo un po', si vedono un gruppo di persone, poi lui ci spiegherà chi, che fanno il saluto fascista davanti a un ufficiale. Sì. Ecco, ci spieghi un po' perché ha scelto questa copertina e cosa rappresenta? Allora, l'ho scelta perché questa, come tante altre, è una foto ufficiale dell'Istituto Luce. Chiaramente l'Istituto Luce produceva del materiale per la propaganda, cioè erano tutte quante foto che andavano bene per messaggi che si voleva trasmettere, messaggi ufficiali che si voleva trasmettere, che erano chiaramente approvati, sanzionati positivamente dal governo e dai vertici delle forze armate. Quindi questa era un'immagine che andava bene per essere pubblicizzata. È un gruppo di prigionieri sovietici che nell'estate del 41, quindi nelle prime battute della guerra, saluta romanamente, quindi con il braccio alzato, un ufficiale dell'esercito italiano che passa in quel momento, in quel punto. Chiaramente erano obbligati a farlo, non era certo una loro aspirazione quella di fare il saluto fascista a un ufficiale italiano, erano obbligati a farlo, non è detto neanche ad alcuni avrà provocato una ripugnanza totale per il semplice fatto che erano prigionieri costretti a salutare un ufficiale invasore, ad altri non aveva fatto né caldo né freddo perché magari non si rendevano nemmeno conto di quello che facevano, però l'ho trovata, come dire, significativa del fatto che la guerra significa anche questo: vengo in casa tua in sostanza e ti costringo a fare questo perché sei prigioniero. Poi c'è anche un altro piccolo particolare, e chiaramente dovreste prenderlo in mano dal banchetto in fondo per riuscire a rendervene conto. Ci sono diversi prigionieri che indossano un cappotto, che hanno questo cappotto semplicemente appoggiato, e non alzano il braccio destro per salutare romanamente, ma alzano il sinistro, e non si capisce se lo facciano un po' apposta oppure se fra loro non ci siano dei feriti anche, e pure dei mutilati, perché succedeva anche questo, non potevano alzare il braccio, ecco, qualcuno magari lo avrà fatto anche apposta. Ecco, quando gli italiani arrivano all'inizio sono convinti di arrivare e occupare quel territorio in maniera stabile o comunque per lungo tempo, e quindi si crea tutta un'amministrazione del territorio, dai tribunali alla riscossione delle tasse, alla scuola, che viene gestita dall'esercito italiano, dal Regio Esercito. Tra l'altro ricordiamo che dopo il XIR arrivò l'ARMIR, no? L'armata italiana e Russia. E quando arrivò l'ARMIR aumentò anche il contingente, corretto? Quindi ci fu un'iniezione di soldati freschi. Sì, nel primo anno di guerra appunto si manda un corpo di spedizione di 60.000 uomini e qualche cosina, che i tedeschi non avevano chiesto. Però appunto, passato il primo inverno di guerra, la guerra si è rivelata molto più tosta, molto più lunga del previsto. A quel punto Hitler invece chiede agli alleati uno sforzo in questo senso, e quindi nei primi mesi del 42 le potenze che sono alleate dei tedeschi iniziano a rafforzare o a rinnovare i contingenti, lo fanno un po' tutti quanti, lo fanno anche gli italiani, che pian piano progettano e poi mandano al fronte un'intera armata, l'ARMIR, armata italiana in Russia, o ottava armata italiana, e quindi da 60.000 spiccioli passiamo a 230.000 quasi, quindi sono tre volte e mezzo tanto. Chiaramente l'Italia manda quello che ha sotto mano, quindi non aumentano molto gli uomini, ma non necessariamente i mezzi, anzi si diluiscono in proporzione, però quello che si ritiene ancora una volta è che svalicato il primo inverno di guerra, poi le operazioni ripartiranno, e infatti nella primavera del 42 i tedeschi ricominciano a fare le operazioni e tutto sembra tornare al posto suo, cioè sembra che la guerra finalmente, dopo aver subito uno stallo, possa essere portata a conclusione. Bisogna capire molto bene una cosa: noi appunto conosciamo questa guerra per come è finita, cioè per i tedeschi c'è stato Stalingrado, quindi un disastro, e da lì hanno praticamente perso e basta, sono solo tornati indietro. Per gli italiani c'è stato appunto il Don, la ritirata, e quindi, come dire, identifichiamo quella guerra con questa sconfitta e con quel tipo di dramma. Ma tutti quanti fino all'autunno del 42 pensavano: sì, ci costerà magari un po' di più, ci vorrà più tempo, ci vorranno più morti, ci vorranno più cannoni, più carri armati, più aerei, ma questa guerra la vinceremo. E appunto, mentre combattono, pianificano di occupare il territorio stabilmente e di amministrarlo, sostituendosi al potere preesistente che era quello sovietico. Esatto. E tra l'altro in questa amministrazione del territorio devo dire che gli italiani non brillano, perché subito si verificano fenomeni di mercato nero, di saccheggio, di requisizioni illegali, di corruzione, insomma non è che portano proprio un'amministrazione cristallina. Mettiamola in questo modo: l'area di occupazione italiana coincide all'incirca, si estende, ma la prima area di occupazione che poi rimane fino alla fine della guerra coincide un po' con l'Ucraina orientale, che è la parte più industrializzata del paese. Ne abbiamo sentito diverse volte parlare in questi ultimi tre anni, perché è proprio lì dove si combatte, quindi proprio il territorio conteso, no? Donetsk, sì. Lugansk, più o meno è un po' di più del territorio conteso, diciamo, ma siamo veramente lì vicini, per cui c'è Lugansk, che all'epoca all'epoca era Vorochilovgrad, che era sotto occupazione italo-tedesca, appunto, c'era Stalino, che oggi è Donetsk, quindi siamo proprio in quell'area lì. Ecco, quelle sono aree amministrate direttamente dagli italiani, o quando sono amministrate dai tedeschi c'è una presenza italiana molto importante. Comunque hanno magazzini, hanno basi, ci sono dei capisaldi logistici, quindi, come dire, c'è una popolazione di soldati anche stabile che, stando lì appunto e amministrando, cambia il territorio, cambia volto al territorio. Per esempio c'è un bel paesotto di all'epoca 100.000 abitanti circa, che era Rikovo, che oggi si chiama Yenakieve. Siamo sempre nell'area di Donetsk, siamo sempre da quelle parti lì, è una delle tante città industriali che c'è. E a un certo punto i soldati che ci passano in mezzo si rendono conto che è diventata un po' come una provincia italiana, ecco, sembra una provincia del Lazio, qualcuno che viene dal Lazio dice è diventata un po' una piccola Italia, un posto dove in un paese straniero puoi sentirti un po' a casa, ecco. Si captavano i bollettini del Comando Supremo dall'Italia, per esempio, nonostante fosse a migliaia di chilometri, ecco. E come tante altre, come dire, fenomeni di importazione, di esportazione italiana, si esporta anche la corruzione e il malcostume, questo inevitabilmente, per cui ci sono molti magazzini militari, e dove ci sono molti magazzini e molti soldati responsabili ci sono molte sparizioni, molti furti, e c'è anche un fenomeno veramente poco onorevole, che è quello di prendere del cibo e dei beni di qualsiasi tipo e di rivenderli ad altri soldati, ai soldati tedeschi anche, fra l'altro, che chiaramente non si facevano una buona idea degli italiani in questo modo, e di rivenderla anche alla popolazione civile affamata. Le scatolette, per esempio, di carne in scatola militare o di pesce in scatola militare erano particolarmente ambite, e i soldati andavano a rivenderle ai mercati cittadini, dove vigeva il baratto, fra l'altro, per cui questi beni erano veramente molto ricercati. Si finiva al tribunale militare, ma certo non si poteva controllare tutti quanti, questo è ovvio. Quando li pizzicavano, però, ci sono queste carte di tribunali militari che sono veramente interessanti anche da un punto di vista umano, certo non solo da un punto di vista giuridico, ecco, che è solo uno di tanti aspetti della questione. Ecco, un tema che è particolarmente doloroso e anche nuovo per quanto riguarda la ricerca storica è quello della violenza sulle donne. Mi diceva prima che è un tema che davvero non è mai stato indagato, almeno in Italia. Noi di solito sappiamo molto sulla violenza dei soldati russi che arrivano a Berlino, che arrivano nelle città tedesche e violentano le donne tedesche nella fase finale della guerra. Ma purtroppo in guerra la donna è sempre un bottino, e lo fu anche nel caso della campagna di Russia, e non solo i tedeschi, ma anche gli italiani si macchiarono di violenze. Poi c'è tutto il tema, ad esempio, delle case chiuse, delle case di tolleranza, che vennero istituite per, diciamo, andare incontro ai bisogni dei soldati, che erano considerate parte della logistica militare. Insomma, è veramente interessante anche questo aspetto che riguarda la guerra e le donne. Sì, allora, in Italia non attecchisci il tema della violenza sessuale in guerra, perché è, diciamo, di nicchia, è molto difficile da affrontare. In realtà gli anglosassoni e i tedeschi lo fanno tutti i giorni, insomma, ecco, ormai da loro questi sono temi molto battuti, però da noi è molto più difficile farlo. Ma chiaramente la guerra cambia. Non solo stravolge la vita quotidiana delle persone, quindi anche delle donne, ma cambia anche il quadro valoriale, cioè quello dei valori personali, per cui ad un certo punto, di fronte alla sopravvivenza, può diventare normale anche la vendita del corpo. E questo, chiaramente, chi si trovava lì in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale lo sapeva chiaramente, per cui sia i tedeschi, sia i rumeni, sia gli italiani organizzano, per esempio, delle case di tolleranza, che nel caso italiano sono delle vere e proprie repliche delle case chiuse che c'erano in Italia negli anni 30, per esempio, e fra l'altro lì si trattava di un fenomeno abbastanza sconosciuto, perché il regime comunista, con le buone prima e con le cattive poi, aveva estirpato la prostituzione, per cui la prostituzione visibile quantomeno non esisteva più. chiaramente questi fenomeni poi tornano con la guerra, appunto perché stravolge il campo. E la cosa veramente buffa, per dire, per usare una parola che in realtà è abbastanza fuori luogo, è che quando un'istituzione militare, come l'esercito italiano in questo caso, istituisce appunto dei bordelli per la truppa, lo fa con diversi scopi, uno dei quali è appunto quello di dare modo ai soldati di sfogare i propri istinti ed evitare quindi che magari in assenza di donne, in assenza di donne disponibili, cioè, vadano a cercarsele e a prendersele con la forza, quindi per prevenire la violenza sessuale. Però così facendo si istituzionalizza un'altra forma di violenza sessuale, che è quella dello sfruttamento del corpo della donna, appunto, e questo va messo in conto. E poi in realtà, oltre a questo e oltre ai vari stupri violenti di guerra che non mancano mai in guerra, c'era un'altra forma più sottile di violenza che anche in questo caso, insomma, parliamo di una violenza che non manca mai nei contesti di guerra, dove c'è la fame, dove c'è la miseria, dove si vive al minuto, non alla giornata, che era quello del, come dire, procurarsi del cibo, dei beni di qualsiasi tipo e di andare da donne che erano chiaramente in stato di bisogno, o perché avevano fame o perché c'avevano dei bambini piccoli appresso da sfamare, e il padre non c'era perché era in guerra dall'altra parte, magari era già morto, e quindi le si corrompeva in questo modo. Lì poi bisognerebbe stare nella testa dei soldati per capire se quando fanno qualche cosa del genere si rendano conto o meno di esercitare una forma di violenza, o se si reputino dei protettori, in realtà, ecco, dei benefattori, diciamo così. Perché portavano cibo. Perché portavano cibo a chi aveva fame. Sì, chiacchierando prima ci siamo anche detti, ci sono film che raccontano di grandi amori nati in guerra tra donne russe e soldati italiani, addirittura donne che avrebbero salvato durante la ritirata soldati che erano ormai accasciati nella neve e non riuscivano ad andare avanti perché avevano i piedi congelati, e poi da lì sarebbero nati i grandi amori. Ma questo è forse più un mito che una realtà, anche se non possiamo escludere, diciamo, il singolo caso. Mettiamolo in questo modo: come ogni mito, anche in questi c'è una base di verità, chiaramente, perché sicuramente alcuni soldati italiani durante la ritirata in mezzo alla neve furono raccattati letteralmente da civili del posto e salvati da morte certa, questo è sicuro, non c'era bisogno di inventarsi nulla. Poi chiaramente un film come I Girasoli di De Sica ci fa vedere questo tipo di esperienza vissuta da un soldato che poi addirittura, dopo essere stato salvato, decide di rimanere in loco e di mettere su famiglia nonostante lui. Ricordo che è un film con Mastroianni e Sofia Loren, quindi due grandissimi attori. Lui in pratica si era già sposato con Sofia Loren, appunto, però poi parte per la guerra e lì fa questa esperienza, rischia di morire, viene raccolto nella neve da questa ragazza russa, di cui il nome ora mi sfugge, e per un senso di, non so, comunanza di destini, per un senso di gratitudine o semplicemente per motivazioni sue personali, rimane lì e si sposa con questa ragazza e mette su famiglia, appunto. Chiaramente casi del genere non sono mancati in quel tipo di guerra, ma la maggior parte dei soldati o è morta lì, insomma, sul posto, oppure è riuscita a fare la ritirata con successo. Però De Sica chiaramente aveva un po' un tocco poetico e ci fa vedere questa tipo di situazione, che è sicuramente molto più cinematografica. Quello che io ripeto sempre è che il tipo di esperienze che ci sono state presentate di questa guerra, per quanto possano far parte del nostro bagaglio comune di italiani, sono sempre un po' delle eccezioni. È poetico, diciamo, è cinematografico raccontare di un uomo raccolto letteralmente dalla neve, salvato da morte certa da una ragazza del posto. Episodi del genere non sono mancati, ma in realtà ci sono soldati che hanno conosciuto l'ostilità delle persone del posto perché non ce li volevano, chiaramente, ecco, mettiamoci un attimo nei panni di queste persone qui, però queste esperienze di solito non ci sono state raccontate. Noi abbiamo sempre l'idea, avendo conosciuto questa guerra tramite questo tipo di esperienze, come di coloro che hanno raccontato di aver avuto dei buoni rapporti con le popolazioni sul Don, che erano contadini come loro, abbiamo l'illusione, o meglio, rischiamo di leggere questa esperienza attraverso una lente distorcente, cioè quella che secondo cui tutti i soldati più o meno fanno le stesse esperienze e tutti seguono un percorso abbastanza lineare. Ma in realtà in guerra ci vanno molte persone che non fanno l'esperienza del combattimento, per esempio, non vanno in prima linea. Alcuni non ci sono mai arrivati in Russia, si sono fermati in quella che è l'attuale Ucraina, sono rimasti nelle retrovie, sono soldati anche quelli, hanno fatto delle esperienze completamente diverse, non necessariamente positive, non è detto che abbiano, come dire, intrecciato dei rapporti con la popolazione locale, anche perché magari qualcuno non ha neanche conosciuto dei civili che volessero farlo, insomma, mettiamo in conto anche questo, e non tutti i soldati sono dei fanti con un fucile in mano in linea, insomma. Quella è solo una parte della guerra, solo la parte che ci viene di solito raccontata, ma in realtà la guerra è molto più ampia, e anzi i soldati che in genere non ci hanno parlato della guerra che hanno fatto sono quelli che magari non pensavano di non avere qualche cosa da comunicarci, E non ce l'hanno raccontata, ma per persone come me, per esempio, anzi sono quelle le esperienze da raccogliere. Non ho conosciuto un reduce del mio paese, che abitava tipo a 2 chilometri da me, che era il vicino di casa di una mia zia, che è morto a 102 anni, e io ho scoperto per puro caso, facendo ricerca appunto, che aveva fatto la guerra in Russia. E quando contattai la sua nipote, che era una giornalista, le dissi: io vorrei parlare con questo signore qui, insomma, anche perché a 102 anni si sa che la salute può peggiorare in qualsiasi momento e anche molto rapidamente, per cui, come dire, raccogliamo queste esperienze e magari facciamo parlare una persona che non ha mai parlato. E infatti quest'uomo non aveva mai parlato, e mi mandò a dire dalla nipote: ma io non c'ho nulla da raccontare di quella guerra, perché la prima cosa che ci successe quando arrivammo lì, ci morì il cuoco per caso, e siccome non c'avevo nessuno da mettere in cucina, mi dissero: vuoi cucinare te? E io non so farlo. Ma qualcuno ci serve, per cui ci vai te. E ha detto: per cui io non ho mai sparato un colpo, non ho mai preso il fucile in mano. E quando si fece la ritirata, la feci fra i primi, quindi senza i sovietici, senza i partigiani alle costole, bene o male mi salvai, anzi potei rimanere qualche mese in casa di persone che mi avevano preso a ben volere, perché io facevo il contadino da sempre, tutti quanti nella mia famiglia facevano quello, e quindi mi occupavo del campo, delle bestie, e ho fatto questo tipo di esperienza. Pensavo di non avere niente da raccontare, invece sono, come dire, esperienze queste qui da raccogliere, proprio perché fino ad oggi non abbiamo sentito altro, in pratica, che il soldato che ha fatto la guerra ha fatto la ritirata. Ecco, questo è il quadro generale, e anzi queste sono le esperienze che ci sono sfuggite fino ad oggi. Ecco, c'è una presenza italiana in quei luoghi lì, che non è semplicemente quella che noi conosciamo come campagna di Russia, cioè la battaglia e la ritirata. Ci avviamo alla conclusione e cerchiamo di capire che cosa ci può insegnare quel periodo, quei 2 anni, rispetto al conflitto odierno tra Ucraina e Russia, diciamo. Che cosa ci spiega, che in particolare anche dell'odio che c'è tra i russi e gli ucraini, che non è nato con l'operazione speciale di Putin? Allora, una cosa curiosa che si diceva all'epoca, era un messaggio della propaganda che circolava all'epoca, era che gli ucraini fossero antropologicamente del tutto diversi dai russi, e che anzi bisognasse, fra le varie cose che si andava a fare lì, bisognasse liberare gli ucraini dal cosiddetto giogo di Mosca, cioè lì si riconosceva come una nazione, come un popolo, senza terra chiaramente, perché erano stati inglobati dall'URSS, e bisognava, fra le varie cose, liberarli e renderli uno dei vari popoli europei, per così dire, in opposizione chiaramente ai russi che erano considerati asiatici, sia chiaro. La verità è che i soldati italiani, per esempio, replicano questo messaggio nei discorsi che fanno, nelle lettere che mandano a casa, nei diari che scrivono e anche in quello che hanno raccontato nel dopoguerra. Ma in realtà la situazione è più complessa di quello che potremmo credere, ed è anche per questo che è più difficile capire, più difficile di quello che sembra capire, questo conflitto attuale. Allora, la vera differenza non era tanto fra russi e ucraini. C'era sicuramente una parte consistente dell'Ucraina centro-occidentale che aveva una pessima opinione del comunismo, del bolscevismo, insomma, secondo quello che era il linguaggio dell'epoca. E queste persone qui negli anni 30 avevano subito la grande fame, la grande carestia. Per loro era quello a Mosca il potere comunista, cioè la fame, la morte, l'uso politico della fame, dell'affamamento delle persone per sottometterle. Questo è certo. Ma c'era anche un'area orientale dell'Ucraina e anche delle aree urbane, non necessariamente nell'oriente dell'Ucraina, che invece erano profondamente industrializzate, e indipendentemente dal fatto che queste persone fossero all'epoca comuniste o meno, il regime sovietico, che aveva fatto i piani quinquennali, aveva cambiato il volto di quelle aree e aveva oggettivamente migliorato le loro condizioni di vita rispetto al periodo precedente. Non era necessario che fossero comunisti convinti, ma di certo col comunismo ci avevano guadagnato, diciamo, ecco, questo è il punto. E questo spiega anche il fatto che oggi ci sia un'area dell'Ucraina che è, come dire, non solo appetibile per il governo russo, ma omogenea per certi versi alla Russia propriamente detta. Ed anche, era un'area anche linguisticamente, ed era un'area allora, già negli anni 30, già prima della seconda guerra mondiale, e lo è tuttora, dove il reddito pro capita è più alto, proprio in virtù dei lavori. E dove tra l'altro ci sono le terre rare, tra le altre cose, perché sono concentrate soprattutto lì, ho letto, quindi probabilmente erano aree industrializzate anche perché lì avevano a portata di mano materie prime. Anche se forse le terre rare all'epoca non erano utilizzate come oggi con le nostre tecnologie, però è per dire che c'è veramente un intreccio molto complesso. Se pensiamo che basta togliersi una fascia tricolore per far scatenare un putiferio, come abbiamo visto, pensate quanto i simboli, le bandiere, gli inni abbiano un impatto sulle persone e possano accendere veramente in un attimo passioni contrapposte e anche irrazionali entro certi limiti, no? Bene, io mi fermerei qui, chiederei a voi se avete domande oppure anche testimonianze di parenti, di antenati che hanno fatto la campagna di Russia, e poi ci possiamo salutare. Sì, prego. Volevo chiedere il titolo della sua opera. Io pensavo l'invasione automatica, invece lei ha messo occupazione. Che differenza c'è fra questi due termini, secondo lei? C'è una differenza? Sì, anche se sarebbe un po'... Cerco di rimanere a un livello, diciamo... semplice per rendere un'idea. Allora, invasione avrebbe rischiava di trasmettere l'idea di un atto. L'occupazione invece deve parlarci di quello che succede in due anni di guerra. Questa è la cosa importante. Non solo, ma occupazione in sé per sé ha un significato preciso da un punto di vista storico. E infatti questo libro qui si inserisce, non è certo una meteora nel cielo, ma si inserisce in un filone di studi preciso, che è l'occupazione di X da parte di Y, ed è un filone di studi che è sia italiano che straniero e che ci parla appunto di quello di cui non si è mai parlato. Fino ad oggi noi abbiamo parlato sempre di guerra, almeno in Italia, ma senza mai parlare di quello che c'è attorno alla guerra. Nel senso, la guerra non è fatta appunto solo di operazioni militari, altrimenti sembrano fini a se stesse, chiaramente, ma come abbiamo detto, qui c'è una guerra, per esempio, con delle finalità economiche molto precise, e lo stesso si può dire dei Balcani. Insomma, l'Italia non ci andava lì come dire, rompere le scatole alla gente e basta, perché Mussolini aveva dei progetti espansivi di tipo imperiale. Insomma, c'è uno scopo di ci sono degli scopi precisi e c'è un progetto di penetrazione economica anche, che poi questi progetti, come dire, siano, si possano effettivamente portare avanti o meno, un altro discorso, che ci siano i tedeschi o meno a distanza di gomito, che hanno una potenza, come dire, molto diversa anche da un punto di vista strettamente economico, è un altro discorso, però c'è un progetto dietro. Ecco, questo libro deve parlare non tanto del fatto che si vada lì con le armi in pugno, ma di che cosa succede una volta che con le armi in pugno io ho preso possesso di alcuni territori. Ed è proprio questo, secondo me, che lo rende un pochino originale. Insomma, nessuno fino adesso ci aveva parlato del fatto, io faccio un esempio banale, del fatto che queste popolazioni sotto il controllo italiano pagassero le tasse. Pagare le tasse ad una popolazione vuol dire una cosa molto precisa, vuol dire che il governo precedente sia completamente liquefatto. Le faccio un paragone. In Grecia, per esempio, la Grecia viene invasa, no? Dagli italiani, dai tedeschi e dai bulgari anche, viene smembrato il paese, il che poi darà vita alla grande carestia, insomma, che c'è stata sotto la seconda guerra mondiale, che ha comportato dei morti a non finire. Viene smembrato il paese e viene amministrato da queste tre diverse potenze, ma un governo centrale e locale greco rimane in piedi e amministra, volente o nolente, il paese per conto di chi l'ha invaso. Qui invece crolla tutto, e quindi, come dire, italiani, tedeschi, rumeni, ungheresi, eccetera, ripristinano i servizi da zero e fanno pagare le tasse, per esempio. Queste sono cose che a occhio e croce non ci ha detto nessuno. La scuola, per esempio, prendere possesso delle scuole vuol dire poterle utilizzare come strumenti di propaganda. C'erano ragazzini, per esempio, sovietici, che si vedevano i documentari dell'Istituto Luce o i film di propaganda, insomma, film che a noi oggi sembrano abbastanza ridicoli, ma per ragazzini era un altro discorso, era un po' un gioco. E anche ho letto i libri di testo sovietici vennero ritirati perché erano appunto una istigazione al bolscevismo, no? I libri chiaramente di testo sovietici erano costruiti, a parte quelli, insomma, che insegnavano, che ne so, matematica o le scienze dure, che è difficile piegarle ad un certo tipo di discorso, ma le materie umanistiche, come sappiamo, potevano chiaramente essere strutturate in maniera tale da appoggiare una certa visione del mondo, una certa Weltanschauung, per cui quello che si doveva fare era andare lì, per prima cosa ritirare i testi che erano chiaramente viziati, per così dire, da un'ideologia, e fare soprattutto un'epurazione del personale docente. Per esempio, i tedeschi vanno lì a fare un'operazione di epurazione del personale docente in Ucraina, per esempio, radicale, totale, e la prima cosa che succede è che chiaramente tolgono quelli che sono sgraditi, se necessario li rimpiazzano con altri, e i ragazzi del posto, chiaramente, la prima cosa che fanno, non si fidano dei nuovi docenti. Questo è normale, insomma, ci sono categorie che pagano sempre, i docenti pagano sempre in una guerra dove c'è una componente ideologica, perché vengono considerati a prescindere nemici di chi ha invaso il paese e lo occupa. Chiaramente, essendo una guerra profondamente ideologica questa, una delle cose da fare era prendere il controllo dell'istruzione. Ci sono altre domande, altre osservazioni? Bene. Sì, esatto, in un anno praticamente, un anno e mezzo. Possiamo anche riformulare così, magari la sentono tutti quanti, non so se hanno sentito. Ripeto? Sì, sì. Perché come fosse un insegnante in una zona di guerra. Dicevo, la mia domanda è, gli insegnanti, sì, come vengono formati nell'arco così breve di tempo per poter trasmettere un pensiero più consono all'occupante in questo caso? Allora, è abbastanza semplice. Sia gli insegnanti, così come tutti gli altri membri dell'amministrazione che gli invasori tirano su, sono persone politicamente affidabili, il che vuol dire che spesso hanno avuto a che fare negativamente col precedente governo, che è quello sovietico. Se sono stati dei perseguitati politici, hanno, come dire, le carte in regola per poter essere messe in posti di responsabilità. E questo vale anche per gli insegnanti, chiaramente. Per cui i primi che tolgono di mezzo sono quelli che sanno che l'invasore sa essere ideologizzati. Tu sei un comunista, lo sappiamo tutti che come docente di scuola elementare o anche o docente universitario sei un comunista, ti tolgo subito di mezzo. Poi pian piano si pensa a chi metterci ed eventualmente a formarlo. Poi questi progetti chiaramente non vanno necessariamente in porto. Abbiamo parlato dei tedeschi prima, no? Gli italiani andavano a rimorchio dei tedeschi, sia chiaro. Su moltissime cose andavano chiaramente a rimorchio, anche perché i tedeschi facevano quello che dovevano fare e non comunicavano all'esterno, insomma, della serie arrangiatevi voi finché non mi date fastidio, non vi dico nulla. I tedeschi, per esempio, ritirarono i manuali scolastici che erano stati scritti in maniera ideologica e pensavano di rimpiazzarli con dei testi scritti da loro. Avevano pianificato addirittura di farne 2 milioni in Ucraina, ma non li fecero mai perché non ci fu il tempo e perché avevano altre cose da fare. C'è anche da dire un'altra cosa, che parecchie scuole furono chiuse, per cui, come dire, trovare dei docenti affidabili politicamente per gli istituti che rimanevano aperti era più semplice del previsto. La guerra blocca anche quello, blocca anche l'istruzione, per cui molti ragazzi rimasero a casa, soprattutto quelli un po' più grandicelli, quelli che potevano trovarsi un'occupazione. E quindi anche gli insegnanti che erano stati mandati a casa ci rimasero e trovarono qualche cos'altro da fare. In realtà questa è una guerra fatta di grandi progetti di ogni tipo, poi la cosa più importante era togliere di mezzo le persone scomode e sostituirle con degli anticomunisti che dessero garanzia di essere fedeli, ecco. Questo è l'essenza del collaborazionismo. Chiaramente questo provoca dei conflitti, nel senso che quando io poi una volta ho perso la guerra e sono tornato a casa, i problemi li lascio lì. Come spesso succede, poi scattano le vendette. Le faccio un altro esempio che non c'entra nulla ma è sempre interessante. Quando io invado un territorio e ho dei nemici, chiaramente, che sono i partigiani, che non mancano mai quando c'è uno stato invaso, quello che posso fare è combatterli in tutti i modi, incluso quello che hanno fatto gli italiani, per esempio, sia in URSS che in Grecia, pagare le persone perché mi forniscano delle informazioni sui partigiani e su chi li aiuta. È in un contesto di miseria, però io posso anche inventarmi le informazioni. E questo vuol dire che quando ho perso la guerra e me ne sono andato a casa, ho preso su, insomma, baracche e burattini e me ne sono andato da lì, i problemi restano sul campo. Sì. La stessa cosa che è successa da noi dopo la fine della guerra. Certo, tra partigiani e repubblichini, no? Anche tra persone comuni che avevano dei conti in sospeso, fra l'altro. Sì. C'è ancora una domanda? Ida, velocemente, sì. Poi andiamo. Più che domanda... ringrazio e mettere in comune la mia emozione. Io la seconda guerra me la ricordo molto bene. E quando dicevo prima a te che vengo perché appunto per i ricordi o rinfrescarli, e dicevo dei parenti, ho avuto due zii, fratelli della mamma, cresciuti, educati sotto il fascismo, sotto il re Vittorio Emanuele. Chiamate in guerra tutti e due sui 20, 22 erano nati nel 1917, 1919, perciò erano sui 20 anni. Allora uno si è fatto operare di appendicite e non l'aveva per non andare in guerra. L'altro, ancora qua, non ha fatto la Russia per quello, ma ha fatto la campagna d'Albania. Quando è venuto ci ha portato tante belle... tessuti dei paracadutisti che cadevano giù americani, e mia mamma, brava, eccetera, intraprendente, ci ha fatto i vestitini tutti uguali coi paracadute. Allora io ero contenta, adesso mi ricordo. Ecco, poi il tempo è passato, lo zio che si è fatto operato ha vissuto fino a 70 anni, questo che ha fatto la campagna d'Albania. È morto a 48 in seguito alla guerra, ha lasciato 3 bambini piccoli, il più grande aveva 5 anni, sono cugini ai quali siamo affezionati e mia mamma ha aiutato tanto. No? Io sono ferma a quei ricordi. Poi grande così, adesso seguo, e questa è la domanda che volevo fare, se no sarei qui fino a domani a raccontare. Oggi abbiamo la situazione così in Ucraina e Russia. La seguo ogni giorno e abbiamo anche Israele e Palestina. Ho amici là. Mia mamma aveva un lavoro di negozio, faceva vestiti. Io avevo 20 anni allora, gente che abita ebrea che si è fatta una ricchezza a Bolzano, andavo in casa, eccetera, e ho incontrato questa cultura, eccetera. Dopo li ho persi di vista, sono ritornati poi a Tel Aviv, eccetera. Ecco, tutte queste cose mi passano davanti, più tante altre. Allora ringrazio, perché io ero ferma alla campagna di Russia, alle gavette di ghiaccio di Rigoni Stern. Ecco, allora era tutta quella narrazione, tutta diversa, diciamo, una parte, non quello che c'è dietro, ha raccontato lei. Allora faccio le considerazioni e faccio la domanda. Poi mi dica qualcosa, perché adesso questi sono i dati fatti, ma che speranza c'è andando avanti sulla situazione Ucraina e Russia e Palestina Israele? Perché lei, che è storico e sa tanto più di me, il Papa lavora tanto, tutti e due, ma nessuno li ascolta. Adesso non so adesso se non viene il miracolo, però sento, quando senti la Lili Gruber, la nostra concittadina o altri, tutti hanno un'idea, e mi pare con cognizione anche di causa, ma vedo che speranza ce n'è sempre di meno, che sta roba c'è, se sarà sempre così. Non lo so, questo è quello che mi viene in mente, non so gli altri cosa brevemente. Sì, sì, sì. Allora, molto brevemente, questo purtroppo non è il mio lavoro. per le questioni dell'oggi servirebbe un politologo, possibilmente non un cosiddetto analista, perché non vuol dire nulla, o comunque sia un esperto di geopolitica. Io posso solo spiegarle qualche causa, come abbiamo fatto anche oggi, qualche causa remota che in qualche modo influenza anche l'oggi. Quello che posso dire chiaramente è che io non sono pacifista, sono pacifico sicuramente. La guerra non mi piace, anche perché l'ho vista e la vedo tuttora dall'interno. Ma non spero mai in alcun tipo di pace se per sé, perché la guerra fa parte delle attività umane, che ci piaccia o meno. Ahimè. Fa parte della sopraffazione del più forte sul più debole, e soprattutto, come ho detto anche prima, le guerre hanno delle cause economiche per il controllo di risorse importanti. Ecco, non ci sarebbe la guerra nel Medio Oriente, che va avanti da sempre e che andrà avanti sempre finché ci siamo, se quella non fosse un'area importantissima da un punto di vista strategico delle risorse. E questo mi pare abbastanza anche banale, insomma, detto da parte mia, però così è, per cui non ci farei conto. Il fatto è che ci fa particolarmente specie, perché noi, bene o male, ci siamo abituati a 80 anni di pace, e questo cambia tutto. E infatti come dire, basterebbe andare a scavare nei ricordi familiari per capire che la guerra, in realtà, una volta, prima della Seconda Guerra Mondiale, era un pane quotidiano delle persone. Io ho avuto lo zio di mio padre, che è andato a fare la guerra come suo fratello, entrambi in Albania, fra l'altro, e il babbo era morto nella Prima Guerra Mondiale. Questo non vuol dire che non fosse tragica per loro la guerra, però era, chiaramente ne avevano una percezione molto diversa, che venivano anche dalle guerre coloniali. Cioè, la guerra era veramente qualcosa di quotidiano prima della Seconda Guerra Mondiale. Fa così specie a noi perché ci siamo abituati a 80 anni di pace, per fortuna, insomma, per carità. Questa guerra qui ci tocca da vicino, proprio perché arriva ai margini dell'Europa. Io ringrazio Raffaello Pannacci, è stato davvero interessante ascoltarlo, e vi consiglio la lettura del libro, perché è veramente ricco di episodi e di storie anche piccole, molto vere, molto umane. Grazie. Grazie. Buonasera.